buongiorno, tu sei? Buongiorno, sulla Carini, buongiorno. Buongiorno Eugenio, ben sentito. Cambio cambio, al lavoro oggi. Eia, c'ho il cane qua, mi sta dando fastidio, mamma mia. Ma ah, KK, là, ci sentiamo più tardi al limite, che sto facendo cosa qua, dai. Ciao Eugenio.